banche. Con che coraggio chiedi come va? Sempre tutto bene, sempre tutto bene. Oggi è sabato, speriamo che piove. Ieri ho giocato a far la celebrità. Milano ascolta, io mi sento game over. Sono un coglione ma ogni tanto ci sta. Sempre tutto bene, sempre tutto bene. Ma per fortuna, fortuna, fortuna sei arrivata tu. Nemmeno la luna, la luna, la luna ci credeva più. E ora non mi importa dove si va, restiamo a fare spenti in macchina. Addosso la tua pelle come mi sta. Ma come mi sta? Che cosa mi fa? E vabbè, ci casco tutte le volte. Promesse come chiacchiere da bar. Sconto il debito in fila alle poste. Col mal di testa di un'estate fa. Sempre tutto bene, sempre tutto bene. Ma per fortuna, fortuna, fortuna sei arrivata tu. Nemmeno la luna, la luna, la luna ci credeva più. E ora non mi importa dove si va, restiamo a fare spenti in macchina. Addosso la tua pelle come mi sta. Ma come mi sta? Che cosa mi fa? Ma per fortuna.